tornano di notte per farci compagnia, si travestono di sogno le nostre fantasie. Una luce all'improvviso ci prenderà per mano, ci illumina nel buio, portandoci lontano via da qui, sino all'aurora. Sognare un altro giorno che cambi il tuo destino, un genio della lampada che spianerà il cammino, un credo di speranza sia l'ultimo a morire. Momenti sono questi, passati a non capire perché mai ci sono ancora. Arriva l'alba e poi la notte porta via, si spegne ora il sogno con la fantasia, cercare la memoria della notte, senti com'era. Guardare il mondo intorno negli occhi della gente, sentire fino in fondo cosa c'è. Se la senti a te vicino e capire poi alla fine se potrai crederci ancora. Sapere a cosa credere, se è vero una bugia, a volte siamo strani nella malinconia. Ricordi di una storia, un tempo ormai lontano, portano vicino il caldo di una mano, ora si può viverlo ancora. Passa un altro giorno, non cambierà il destino, perché soltanto noi, segnandoci il cammino, abbiamo una speranza che mai potrà morire. Passato il nostro tempo, cercando di capire se poi c'è qualcosa ancora. Un dubbio nella vita, il tempo porta via, se vivere in un sogno o nella nostalgia, dormire nel passato e poi col tempo svegliarsi ancora. Guardandola negli occhi, stringendole la mano, sentire nel tuo cuore cosa c'è, poi sentirla più vicino, capire nella vita che si può vivere ancora, che si può amare ancora.